Devo dire, è la prima volta che mi trovo a fare una cosa così strana. Cioè, ne ho fatte altre cose strane, però mai con usando il telefonino. Era un po' che avevo in testa questa cosa. La mia musica per eccellenza è la musica elettronica. Ecco, in questa serata tu sei in una veste quasi da DJ con un set di sei telefonini. Spiegaci da dove è nata l'idea e soprattutto come poi ha preso forma questa idea. Allora, l'idea è nata insieme a un mio caro amico e anche compagno di tante avventure musicali, si chiama Paolo. Il nostro compito è inventarci cose strane per la comunicazione. In questo caso Motorola faceva questa campagna di lancio di questo nuovo telefono con possibilità, diciamo, varie, abbastanza sofisticate, per cui ci è venuto in mente insieme che potevamo sfruttarlo come per fare una sorta di DJ set usando sostanzialmente i telefonini al posto dei piatti o dei CD. Però man mano che andavamo avanti nella prova di queste idee, eccetera, ci siamo resi conto che invece si poteva andare anche oltre il DJ set. Per cui alla fine è nato una sorta di show interattivo, per cui io uso i telefoni in una maniera abbastanza diversa l'uno dall'altro. Se in particolare in questo che tu hai visto c'erano tre telefoni che erano usati proprio come dei classici riproduttori di suoni, ovviamente non come i piatti HD che puoi partire in real time perché è sempre un telefono, quindi devi inventare le cose particolari per missare i pezzi, mentre invece due telefoni erano usati come riproduttori di sintesi vocale perché hanno la possibilità questo telefono di far parlare i menu. Scoperta questa cosa abbiamo pensato che potevamo far dire quello che volevamo, quindi in sostanza è diventato un amico parlante, mentre altri due telefoni invece ci chiamavamo proprio sui telefoni e quindi sfruttavamo il microfono di un telefono, diciamo, come microfono vero e proprio, parlando dentro, facendo parlare il pubblico, e io ho suonato appunto anche una diamonica amplificata al telefono stesso.